Ciao Lara, mi chiamo Stefano, 36 anni e vivo a Stoccolma. Io volevo rendermi disponibile per un eventuale fidanzamento, quindi se vuoi organizzare una qualsiasi cena, magari ad Arcore, una cena elegante, dove vuoi tu, io mi rendo disponibile, posso venire, beviamo la Coca-Cola Light, se c'è la musica io comincio a ballare, eventualmente mi vesto anche da prete e da suora con la parrucca rossa, come vuoi tu. Non c'è problema. E così possiamo conoscerci ed eventualmente se proprio il fidanzamento non va a buon fine ufficialmente, beh, a me basta, ti dico la verità, un appartamentino in via Olgettina, 2.500 euro al mese e la mia disponibilità comunque rimane. Ciao Lara, ciao a tutti.